Buongiorno, canale 10, buongiorno, good morning people, buongiorno gente del canale 10, vediamo un po' se c'è qualcuno sveglio o se sono tutti ancora impegnati a fare colazione, ma è già quasi ora di pranzo, vediamo un po', buongiorno ancora. Good morning my friend. Ecco, bene, c'è qualcuno, allora c'è sveglio. Quando mi sono alzato io trovo ancora il sotto le coperte, buongiorno. Beh, per forza, c'avevo un campionato provinciale lì in Voltini Lenzuola, nulla nulla, ma ci vuole preparazione, ci vuole preparazione. Poi sponsorizzato alla Bassetti, d'altronde, o così o Mastercard. Figurati io, sono alzato alle 6:10. Alle 7:30 sono uscito con mia figlia a accompagnare al lavoro perché mi serviva la macchina, dovevo fare delle spese stamattina e quindi sono rientrato che erano le 9:30, 10:15 e non sono qua, stavo facendo un po' di pulizia e siamo qua. Buongiorno anche a Natalino, ben ascoltato. Avanti Marco. Bene, ciao Natalino, buongiorno. Bene, io invece adesso sto andando, ho un piccolo sched, aspetta che mi devo fermare un attimino. Ciao Claudio, ciao Marco, io sono sveglio da presto lo stesso, alle 7:30 ho fatto colazione, come ogni giorno, e via, e tira campà. Volate basso con gli orari, volate basso con gli orari, buongiorno. Bene, ho fatto 30 anni di orari a di notte, peggio del deo, oggi buongiorno. Quindi non è che mi spavento, sono andato alle 6, ho fatto la colazione a mia figlia, poi siamo usciti a sera. Ho aperto il bar, adesso alle 4 vado a prenderla e tira a campà. No, io Natale sono andato al 13, mi sono preso le sigarette, il giornale. Ho dato un'occhiata al giornale, ho fatto colazione e poi sono rientrato a casa. Buongiorno Eugenio, avanti, Chihuahua. Eia, buongiorno, chi era in macchina? Lo sentivo, non ho capito chi era. Marco Scorpio. Ebbene, il cubo di Porto Torres, buongiorno Claudio. Buongiorno, vedi chi si alza a mezzogiorno. Buongiorno. E che è a mezzogiorno? È soggiorno qua. Il relax. E me, com'è? Noi stiamo andando in campagna qua. Mamma mia, ragazzi, è un freddo. 7 gradi ci sono qua su. 7 gradi. Stamattina quando sono uscito c'erano 4. Allucinante. E infatti mi era gaggassi oggi, dove fa? Maria, una domenica, c'è una domenica, no, la cena in campagna. E vabbè, copritevi, accendete il fuoco, perché c'è un bel freddo, un bel freddo c'è, va bene, avanti Eugenio. Ciao Luca, buongiorno, ben sentito. Scusa un attimo, mi devo allontanare perché sto facendo una cosa, un attimo. Fai, vediamo un po' Marco è sceso dalla macchina. Fermo, felice, cazzo, mi sta tutto baffando, vai in culo. Sì, proprio viene la gaggassi, così c'è freddo. E vai a campagna, se ti vuoi sano, lì per freddo, mi Luca. Ma loro ci vivono in campagna, no, già c'è il condizionatore, c'è la stufa legna che fa anche da cosa, da cucina, là. Lo so, io c'era il freddo. Io ero in soggiorno, in relax, stavo bene. C'era la mamma e avremmo occuparato, guarda, ma purtroppo devo andare anche a fare un po' di spesa. Mamma mia, l'ho messo. Freddo c'è lui, c'è freddo in campagna, freddo, umidità, un sacco di cose, vabbè, comunque, se ci vivono come me, ti devi abituare, per me questo è il primo inverno, ancora non mi sono abituato, e ancora, il freddo non è cominciato, ancora devi cominciare. Gli ho messo qualcosa io del freddo, qua, quando vivevo lì, nelle alture, in chi mi aveva da via? Ma tu sei cuoco, nel freddo ne passavi, capito? Cuoco, ma Dai, drogato, cuo, ma ne sarai tu. Tu dusa. E anch'io lo so, dati qui, non ti ho visto sotto il ponte con lo spinello. Ah, tu eri, mi hai visto, eh? Io ero per quant'anno, ecco, qua, come sta? Ma chi c'è là? Oltre a te, io non ho fatto un ascolto, come al solito. Chi c'è in frequenza? Ma è entrato Marco che è in macchina, ma penso sia sceso, ma poi Eugenio si è allontanato, no, io ero qua intanto e stavo facendo cosa, l'ho sentito Marco che stava chiamando e sono entrato a salutare, anzi prima di me è entrato Natalino, ma non è che mi trattengo, mezzo giorno me lo vendi, metto a fare qualche cosetta, se no fai due tardi, però le radio sono tutte accese, stavo ascoltando un po' in HF. Va bene, vediamo Marco se riprende, no, riprenditi un'altra idea, poi c'è anche Eugenio mi pare. E non mi trattengo neanche io, devo fare cosa, anch'io devo fare qualcosa anch'io per pranzo. Vi saluto tutti e me ne passo in quel retirà, che se no non combiniamo nulla oggi. Io devo smontare l'antenna, infatti sto andando con la mandola adesso, devo smontare la G-Pol perché domani deve partire a Cagliari e io devo aspettare che arrivi l'altra nuova, purtroppo questa deve partire a Cagliari, così mi ha detto il boss e allora a me manda sempre bene. Questa è già usata, gli ha fatto lo sconto perché non ne ha più, le ha tutte vendute. E quindi a me me la rimanda nuova appena arriva, no? E devo smontarla, anzi vi saluto, dai, che c'è un po' di sole, uno spiraglio di sole, ci metto 10 minuti a scendere, intanto 2 metri in pausa, la abbasso, la smonto, me la porto nella, dietro il Calvario, dove c'è piove, non ho problemi, me la smonto, la pulisco, la imballo, domani mattina viene il corriere a prendersela. E cappa, già l'avevo sentito, che avete fatto un favore a una persona. Vabbè, ok, vi saluto tutti, da curetti per me. Ehi, lasciate subito perché questo è un amico suo, io non lo conosco, è un suo cliente da tanti anni e siccome devono gettare il solaio, prima di gettare il solaio hanno messo il tubo, questa facendo la casa lì in provincia di Cagliari. Devo montare subito l'antenna perché sennò poi non si può salire, capito? Siccome l'ha ordinata ma non ne ha, allora mi ha chiesto la cortesia a me, ho detto che problema c'è, nuova, non ti preoccupare, le ho fatto lo sconto e va bene così, non mio carissimo cliente, e a te appena arrivano te la mando nuova, a me manda sempre bene, non è il problema, già ce l'ho io la mando, ma no, ormai non l'ho tolta, se no rimane qua a piedi. Va bene, ciao Natalino, buon X, ci sentiamo. Eugenio, ci sei, non ci sei, o ti fai? Non c'è. Luca, se vuoi riprendere, se no rimando il QRX, così, anzi no, rimando il QRX, così vado a smontarmi questa antenna, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Sì, allora, mi stavo facendo qua, sentiamo male stasera, ciao. Ciao, Maria, avete vinto d'ora, vabbè, con Venezia non è che tu vi arriva molti sforzi. Però mi sa che anche quest'anno vi prendete lo scudetto, ve lo giocate col Milan. Sì, la cosa ti dico, a me mi piace, cioè, nel senso che sforzare come gli altri lo fanno con me, e poi a me non mi tocca nulla, perciò, vabbè, l'Inter è stata sempre la mia squadra da tantissimi anni, attentissimo, da piccolino, ma alla fine a me non mi tocca nulla. Vicino a me, ma tutta sai, ve lo dico anche quest'anno, è un bel forte, c'è questo Milan che sta viaggiando alla grande, sicuramente ve lo giocherete tra milanesi, l'Atalanta un tiro in porta ha fatto adesso, un tiro in porta, uno squadrone l'Atalanta, poi Bergamo è sempre un campo molto difficile, vabbè, ha perso 1-0, pazienza, poteva recuperare qualche punto invece, ha perso, va bene. Ci sentiamo più tardi, Ugariera, vado a togliermi questa cosa, ciao. La squadra forte è quella di Lino Maffi. Ciao Luca, buongiorno, Marco Scorpio, Malo Inca. Ciao Marco, saluto anche a te, ti ho visto ieri, dai. ti ho visto ieri, sei passato zona Viale Porto Torre, sì, io stavo andando al cimitero. Ti ho suonato, ma tu sicuramente c'hai lo stereo in macchina a palla. No, ti ho visto. Beh, o lo stereo o le radio accese, quattro frequenze, e chi l'ammazza quello? Boh, e chi? Tutto visto. Ci sarei fermato e ci avremmo preso un caffè in Viale Porto Torres. E siamo andati avanti indietro, adesso ero sulla pedalita, sono risalito e sono andato a ritirare e sono in zona nuovamente in direzione verso casa, non so, ma il caffè non se ne prende, boom, non c'è nessuno in giro e allora non so. Sì, in Viale Porto Torres tu visto. Gappa. E tu vai sempre lì, no, all'invidia, così. Molte volte, ad esempio, fermo anche qua vicino a casa, da Chico. Mi pare anche ieri mi sono fermato. Con chi ero? Pare anche pure da Chico. Adesso dimmi tu, stanno portando via una macchina col Carrefour di domenica, vanno in giro a rubare le macchine perché non sono parcheggiate perfettamente in linea, qua allucinante. Ma caro attrezzi, allora, ma quando mai? Ma veramente non sanno più dove prendere i soldi, non sanno più dove prendere. DFB, ma cosa fai? Esci dalla tana, andiamo a prendere il caffè, è l'ora, se no passano questi 10 minuti ed è andata. No, ma devo smontare l'antenna che domani faccio il corriere a prendercela. Ho già preparato l'attrezzatura, era una cavalleria, ti ho sentito di sfuggita. Devo smontare la G-Pol perché domani mattina passa il corriere a prenderla. Capito? Capito, ma la stai togliendo? Sì, la sta smontando, la deve imballare e la deve spedire a Cagliari. Ho capito, va bene, vabbè. E tu lo a casa, no? Qui sto passando, Marco, stiamo andando in campagna con la 25 dai genitori. Mi luce anche una bella giornata, Prima la mattinata era un po' così, ma adesso si è messa molto meglio. Vabbè, sono già arrivato, Sentiamo, ciao, buona domenica a tutti, QRT, ciao. Ciao Marco, grazie altrettanto a te, ciao. Ciao Claudio, ciao Eugenio, Natalio, ciao a tutti, buona domenica e buon pranzo Gappa, ciao. Ciao, ciao. Sensore 10, c'è qualcuno? Sensore canale 10, c'è qualcuno? CQ10? Hola? Ciao Roberto, buongiorno. Sì, ciao Claudio, buongiorno. Ti ho sentito, ero lontano dalla radio. Ma hai fatto qualcosa? Stai arrivando più forte del normale? No, niente, assolutamente niente. Ieri 9.10 con i picchi a 9.15, adesso sei 9.15. No, nulla, no. Ieri avevo provato quel microfono, poi l'ho cambiato, basta, non ho toccato niente. No, stai andando più forte, vabbè. Mario, non lo so, forse ieri perché c'era un po' di umidità ieri notte quando stavamo parlando e probabilmente c'era qualche attenuazione di segnale, non lo so, le antenne non ricevevano come ricevono adesso. Ok, c'è qualche cosa che fa su questo canale? Non saprei dirti, ero lontano dalla radio. Aspetta, siamo un attimino di bianco, vediamo qualcuno su 10 che vuole entrare, se no riprendi tu Claudio. 2 secondini di bianco, avanti, chi vuole entrare? Niente, vai tu. Io ho uno strano problema, un giorno la stazionaria 1.5, un giorno ce l'ho 1.2, un giorno ce l'ho 1.1, è variabile, non so se funziona come funziona il tempo, stranissimo, mai così. Che non c'è la salsedine che fa qualche cosa, qualche problemino, ma entro 1.5 già vanno bene, è importante non salgano troppo. All'1.8 in su devi iniziare a preoccuparsi, ma 1.5 già è tollerabile, dai. No, io grazie a Dio questa mantova da quando ce l'ho io non l'ho mai toccata, ho sempre utilizzato cavo buono, connettori buoni, tutto sigillato bene, ce l'ho dal 2004 installata e sta sempre andando, sempre stazionare bassissima, non l'ho mai toccata. Sì, ma anche la mia è sistemata bene, tutta bella sigillata, connettori messi a paroni, di quelli da 6,50, il cavo è 213 militare, e poi ho fatto un'altra discesa con il Belden 100, che momentaneamente quella non stavo provando un dipolo che poi ho tolto, che non mi è uscito bene. Anche io ho utilizzato il 213.000, no, diciamo del 213 è quello migliore perché c'è la calza rinforzata e la guena rinforzata e poi i connettori da Lanfe, no, quelli vecchi di una volta che si utilizzavano in bacchelita, che sono eccezionali, belli saldati in entrambi i puli, sia quello collocato che il polo che la calza, in modo da avere poi tutto sigillato, vulcanizzato eccetera, sperando che duri il più possibile. Qualcuno mi ha salutato, ciao, chi mi ha salutato? Sì, tu dovresti provare quei PL messi a parone, sono favolosi, hanno un sistema di serraggio per la massa veramente fatto bene, costano un po' però sono stagni, hanno anche la guarnizione in gomma per non penetrare l'acqua, sono fatti bene. Sì, li ho visti sulla pubblicità, sicuramente sono superiori a quello che ho indicato io poco fa. Vediamo qua su 10, chi è che ha chiamato avanti? Mi ha sembrato qualcuno stesse parlando. Tu hai sentito qualcuno, Claudio? Sì, ho sentito uno che mi ha salutato. Ma era forte il segnale, dalle tue parti o che cosa? Mi è passato sopra. E allora era dalle tue parti, no, me capiti, cioè l'ho appena ho sentito un picco di coso, di smitter sollevarsi. Vediamo se vuole entrare l'amico, avanti qua su 10, chi vuole entrare? Nulla. Riprendi tu, Claudio. Sì, ne approfitto e me ne ero dimenticato e faccio complimenti per la paziente. Io dovevo fare tre volte gli esami, tre volte una volta per una cosa, un'altra volta per un'altra, e se no anch'io l'avrei avuta da oltre 30 anni. Ma immagino, dai, io l'ho provata nel 2012, mi sono un po' disgustato perché per una fesseria, proprio una cosa, hanno fatto un giochettino di 0,75 quando sono andati con Fabrizio nel 2012, ero un po' disgustato perché cacchetto, ma ti pare fare una domanda del genere, c'è una domanda tra bocchetto per la potenza dissipata o potenza reale, era una domanda su quella che ha applicato la formula della potenza, invece non era quella, l'ingegnere addirittura si è trovato in difficoltà perché gli ho detto, ma l'ingegnere che è giusto a questa risposta, aspetti, mi faccia verificare, farò i miei cose e poi le mie indagini le farò sapere. Questo era il venerdì, lunedì poi mi ha chiamato, no, la risposta sua è sbagliata, è la potenza dissipata, non potenza reale, era una domanda tra bocchette, ma qua fa, e me ne è passata la voglia di farlo. Poi qualche amico radioamatore mi ha fatto rivenire la voglia, mi sono messo un mesetto a leggere qualcosa di nuovo, a ripassare, e grazie a Dio è andata bene. E anche mio figlio mi sembra che sia passato alla terza e gli è andato la mano e è riuscito a passare. Ma opera di Leopoldo Torres? No, adesso qui non c'è e si è trasferito a Olbia ma non è ancora rimesso sulla stazione. Ma da molto era di amatore? Sì, di un po' di anni. Ma lo conosce Claudio, amico di Claudio anche. Non lo so, non è quello Stefano, non c'entra niente, no? No, si chiama Roberto come te. No, non lo so, probabilmente in CBA, ma è modulato, non lo so, vabbè, io non è che ci sia da tanti anni, ci sono dal 2004, però non mi sembra di averne sentito di Porto Torres Roberto. 2012 era già radioamatore a voglia, era già anche un paio d'anni. Lui addirittura ha fatto l'esame quando c'era ancora la telegrafia. No, quando sono fatta io era già conclusa, sembra dal 2008 le hanno unificate le patenti o dal 2005, adesso non mi ricordo se 2008 o dal 2005 sono state unificate le patenti, per cui è stata tolta la telegrafia, tanto ormai solo gli appassionati, i vecchi radioamatori di una volta ci vanno, ormai non c'è più operatività in quel campo lì, anche se sicuramente bisogna toglierci il cappello quando lo utilizzano, adesso poi ci sono tutti questi modi digitali che scrivi e automaticamente te lo fa in telegrafia. Aspetta, se ti sentano ti picchiano. Guarda che c'è gente che insegue ancora l'honor roll e ce ne sono molti, non pochi, ci sono, solo che è gente bravissima che ormai hanno, loro mattono a musica, non più a punteline. Sì, sì, no, no, assolutamente non sto criticando, la radio è nata dalla telegrafia, mica è nata dalla fonia, assolutamente, però i giovani non ci va più nessuno, sono vecchi radioamatori di super esperti che li fanno, io ho un amico carissimo che fa solo quello, lui in fonia non ci va, era un ingegnere che lui è stato imbarcato, telegrafista di bordo, insegnante di elettrotecnica, eccetera, eccetera, lui va solo in telegrafia, no, è grande, una persona che ha 74 anni e lui non va assolutamente in fonia, ma solo in telegrafia, ci sono ancora gli appassionati, però parlo dei giovani patentati, non ne conosco gente che faccia telegrafia. No, giovani patentati no. Quanti siete rimasti adesso di CB a Portotone? Ci sei tu, Eugenio e poi Mario, può essere, tre che mi ricordo io. E Mario, poi da poco è rientrato un vecchio CB che si chiama Antonio Sceriffo, poi ce n'è un altro che entra poco, Emiliano si chiama, che Caimano, Emiliano Caimano, e poi ce n'è ancora un altro, c'è Gianni che fa un autista di camion, anche quello entra una volta ogni morte di pappa, e poi c'è stato qualcuno in ascolto, c'è sempre, c'era Luca e che non sta entrando più. Questo Gianluca Caimano mi sembra averlo ascoltato qualche volta. Sì, ieri sera è entrato Emiliano. Ieri sera stava parlando con noi qua, tu mi sembra che eri con Gianfranco dall'altra parte. Mi sono spostato perché stavamo provando a installare, no, anzi i programmi sono già installati, però non mi funzionava la pennina wifi, infatti mi adesso ne ho preso una, sono andato da cinese e questo è un computer, non è nuovissimo, per cui non ha all'interno la connessione automatica, ho preso una pennina da queste wifi da cinese, l'ho appena installata, funziona tutto perfettamente, infatti ho chiamato se c'era Gianfranco, perché stamattina lavorava, poi dopo un certo orario era libero, infatti ho detto mi coincide, avevamo di fare delle prove, se no ci sentivamo il pomeriggio, poi sei entrato tu e avanti di nuovo a te. A proposito, volevo dirti dei computer che ho seguito con cui c'è un paio di sere fa che ne stavate parlando. Bisogna approfittare quando ci sono delle ditte che cambiano, che si cambiano tutti i computer, lo fanno anche per l'IVA e cose così, e bisogna approfittare dei server dell'HP che sono ottimi e che poi oltre da server fanno anche da workstation, sono macchine stabilissime, sono molto buone, io ne ho preso una, ce l'ho già un anno e mezzo ed è una bomba, c'ho i processori allo Xeon, ne ha due, sono i cosiddetti processori freddi, sai, e 16 mega di RAM, gli hard disk li ho cambiati, li ho sostituiti, ho messo quelli allo stato solido, ed è risultata una cosa velocissima. Buongiorno, ciao Claudio, te ne controllo, ciao, ti rilascio a Claudio di Portotone e poi dopo gli faccio una domanda. Avanti Claudio di Portotone. Stavo parlando, non mi hai sentito? Sì, ti ho parlato, sentito, però ho fatto, è entrato Claudio, ha salutato, non hai sentito, ti stavo rilanciando a Claudio torre di controllo, perché avanti Claudio, saluta all'altro. Aspetta, riprendi Claudio di Portotone, cioè. Ciao, buongiorno a tutti, No, mi stavo smontando la adesso l'ho già pulita, poi me la imballo la Smart Tech, perché domani mattina parte a Cagliari, poi a me quando arrivano me la rimanda nuova, capito? È un cliente suo, sto facendo la cortesia, gli ha fatto lo sconto, gli sta facendo passare come usata, però c'ha due mesi, insomma, nuova che sta, deve piazzarla subito immediatamente, perché se no poi getta una sola, io non si può piazzare, capite? Quindi le serve subito, domani mattina gliela spedisco immediatamente, ho già chiamato un mio amico corriere, un altro domani mattina che la, tanto faccio la zona di uso, quando sono scenario lo passo con la vettina. Va bene, buongiorno, avanti Claudio, anzi Roberto, riprendilo, devi fare una domanda a Claudio. Infatti anche ieri stavamo parlando con Gianfranco di quel discorso di quelli ricondizionati dei server, tu dove l'hai preso Claudio? Io l'ho preso su eBay, e ce n'era una partita che avevano messo in vendita e senz'altro di qualche ditta che li ha sostituiti, e aggiunto solo, ho sostituito gli HD, ho messo quelli allo stato solido e una buona scheda video della Nvidia, la 1060 l'ho messo, sì. E ti posso dire che fa invidia agli ultimi i7, so che il processore i7 ci sta proprio a pelo. Quanto ti è venuto il giocattolo? Ma così com'era, mi sembra che l'avevo pagato 100 euro, compreso le spese di spedizione. Figurati, con 16 giga di RAM. Sì, 16 giga di RAM, non molto velocissime, sai che ci sono RAM e RAM, no? Ci sono veloci, medie, scarse, eccetera. Diciamo che sono quelle medie, cioè quelle medie sotto. No, cavolo, le regalano un pezzo quasi da regalo. No, io stavo guardando qualcosa con Gianfranco, c'era questa HP con 8 giga di RAM, 500 di hard disk e 180. Poi ne ho trovato un altro dalla Fujitsu, che sono mezzo intenzionato, infatti insomma, mi faccio il regalo di Natale, quello c'ha la SSD di scheda a 240 giga di coso di hard disk e 8 giga di RAM. Di quelli, sto parlando di quelli tipo un decoder per televisione, quelli piccolini slim, e quello costa 173 euro. Non è male, è un po' piccolo l'hard disk, però 240. Almeno da mezzo tera, insomma, 500 GB. E 240 è piccolino, ci metti il sistema operativo, qualche altra cosa che serve e boh. Ma lo sto utilizzando, lo voglio utilizzare solo qua in radio, non devo fare nient'altro, non mi serve per fare musica o video o cose del genere, non devo metterci niente, è soltanto per interfacciarlo con le radio e come si chiama, e poi fare il buco di stazione. Sì, ti do un consiglio, io ho cominciato con l'Amstrad, figurati quanti anni fa, e poi li ho seguiti tutti, penso 1, 2, 3, 4, tutti li ho seguiti tutti. Usa il PC solo esclusivamente il primo hard disk con il sistema operativo e vedi che va sempre bene, tienilo sempre pulito, pulisci la cassetta ogni tanto e vedi che va sempre bene. Te lo dico perché o prima o poi ti installi qualche cosa, sai che ci sono i programmini per OM eccetera e così ce ne parecchi carini. No, vabbè, che un altro SSD 50 euro lo prendi, si può sempre aggiungere poi. Comunque quello dove c'è il sistema operativo tienilo sempre leggero e pulito. Sì, infatti anche Gianfranco mi ha consigliato quello, poi te ne metti uno esterno di hard disk da quanto vuoi tu, tanto ormai li stanno dando da diciamo da 60, 70, 80, dipende da cosa vuoi prendere, euro in su. Sì, è così. E poi per i processori, se tu trovi il processore Loxeon, hai fatto 13, perché sono quelli freddi, non scaldano, e sono fatti apposta per stare accesi 24 su 24 e figurati. Ma Loxeon, non è con questa parentesi, io non sono addentrato in campo di computer, non ho esperienza, sono proprio novellino, io mi perché di altri argomenti, ma di computer mi faccio sempre consigliare perché non ho nessuna presenza, cioè appena lo so accendere faccio qualche operazione proprio di quelle elementari, se mi parli di cose complicate non ne so niente, dai, non è campo mio. No, ma non è niente di complicato. Diciamo che per cose di piccolo ufficio così, Pentium vanno più che bene, sono normali, ma dove c'è bisogno di grande elaborazione dati, di archiviazione così, allora ci si affida un processore serio, che sarebbero gli Xeon, che poi sono freddi, capito? C'hanno una situazione di esercizio a bassa temperatura, funzionano che è una meraviglia, sono duraturi e se non ci sono brutti sbalzi di corrente durano 20 anni. Cioè facciamo riprendere a Claudio di Torre di Controllo, avanti Claudio. Infatti io sto malando l'antenna. Una domanda a Claudio di Torre di Controllo, perché la stai dando questa antenna? Non ho capito. capito, tu te l'hai preso un'altra, quindi. No, praticamente mi ha chiamato il venditore e mi ha detto se potevo fare una cortesia, che c'è un suo cliente molto molto particolare, affezionato, se non compra una barca evidentemente è così, se potevo darle questa, che lui non ne ha più, le ha vendute tutte, poi appena arrivano me la rimanda, la sto facendo così come mi ha detto lui. Questa la rimanda nuova a te? Sì, sì, a me me la rimanda nuova, certo, ma mi convengo, mi ha fatto sé, mi ha fatto uno sconto, a lui sono arrangiati loro, io ho già chiamato a Luigi, ma anche domani mattina appena faccio la zona di Osero, mi fermo un attimino e te la ritiro, così parto direttamente in giornata, capito? Perché sta facendo il tetto questo, c'è l'impresa, quindi la vuole montare subito immediatamente, perché poi chiudono il tetto e non la può montare, capito? Io ho capito, poi meglio te le sorelle sempre care, queste persone non si sa mai, mai di sapere qualcosa, la stessa cosa la può fare anche la stessa operazione. Stai scherzando, ma non è un problema con me, qualche fatto che no, una persona che ho conosciuto anche di persona, perché è venuto da poco, quindi è una persona che io ci tengo, io sono un suo cliente, siamo diventati amici e quindi le faccio questa cortesia, ma dico a me non me la fu tenuta, a me me la rimanda nuova, quindi appena arriva me la ripiazzo. Nel frattempo io ho la mantola, fortunatamente non l'avevo smontata, quindi sto andando con la mantola. Sì, sì, non c'è problema, dai. L'importante è poi alla fine sarai di nuovo operativo. Ok, e di nuovo Claudio, ma c'è un nome di coso, di nominativo qua in 27, Claudio di Porto Torre, lo ti chiamiamo normalmente Claudio? Ma io ho sempre avuto Nevada, da quando ho cominciato, fine anni 60, ho sempre avuto quello. No, vabbè, io preferisco sempre chiamare per nome, che è più facile, più, diciamo, più tranquillo. Purtroppo è capitato ieri, eravate tre Claudio, gli ho detto che cacchio, muro, se sa se è Porto Torre. Ok, e poi abbiamo Sparviero qua, che non ne parliamo, sempre con la persona in mezzo ai piedi, in mezzo alle scarpe, eravate qua. Sì, vabbè, anzi, in questo periodo sono anche poco presente, ma già va bene così, c'è problema. Bene, divertitevela, io mi allontano e così mi sistemo questa cosa, perché veramente devo adesso guardare nell'altra cosa, prendere il cartone, poi le do una girata di quel nylon praticamente trasparente che ce l'ho, e così la tengo pronta, ci devo mettere l'indirizzo, tutto e via. Ci sentiamo, vabbè, io sono sempre operativo, no? Che non c'è problema, è che mi manca quell'antenna, perché adesso anch'io, infatti c'ho un po' di QRM, ero abituato a quella lì, ma no, mi ha detto in giro di una quindicina di giorni, sono prima di Natale già, ma la faceva riavere. Va bene, avanti Claudio, riprendi tu, io rimango in quel rix, ok? Ok. Quindi se fossi sicuro che risolvo col QRM la prenderei anch'io. Ma devo essere sicuro però. E se no è inutile, no, non ho risolto nulla. E sto ricontrollando tutto. Ho allontanato la discesa della fibra per internet, perché so che quella un po' disturba. Ho separato i cavi, ma no, non ho risolto nulla. QRM c'è, bello, vivo e vegeto. Col DSP ammortizza un pochettino, ma non molto. La questione di antenne, Ma allora non ti fidi di me, mi conosci, quindi se io dico che non ha niente a che fare con la mantola, io adesso l'ho abituato, che c'è un zero di QRM, proprio non si muove, niente, tanto è vero, segnali bassissimi li percepisco, adesso c'ho tre di QRM, la giornata si è un po' aggiustata, ma se stasera piove, se stasera si mette male, QRM a 6-7. Non c'è niente da fare, la mantola è così perché c'è il radiale, un altro tipo di antenna, capito? Tutto qua, quindi non lo so, vedi tu, io ne ho un'altra pronta, però è già venduta, di Carlo, penso che in settimana se la porti via, se no l'avrei mandato quella lì, capito? Non ne ho altre disponibili da darti e renderti conto veramente. senza io, immaginate quanto sono buone, ne averlo a 40 in magazzino, 40, le ha vendute tutte, in Alta Italia hanno tutti quell'antenna, tutti nella zona sua, in provincia di Fermo, lì, da tutte le parti c'hanno tutti quell'antenna, quelli che usano la 27 hanno tolto la Mantova, chi la cosa, come si dice, la D-Master, hanno tolto, mi stanno dicendo, altri tipi di antenne, sempre verticali, ma hanno montato quella. Capito mi hai? Va bene, vi lascio per deliberare. Roberto, riprendi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Salvedio, batterista molto serio. Buongiorno Salvedio. Buongiorno a tutti, buona domenica. Ciao Salvedio, ben sentito. Perché batterista? Lo sei batterista, sei Salvedio? Come Roberto? Ecco, batterista Claudio, ma sei strumentista. Ti faccio un attimino che faccio un po' di abbruto, aspetta che mando via un po' di giocato. Eia. E ce n'è ancora Claudio riportatore, c'è quel PC? Certo che ce l'ho, funziona. E mi ha dato anche il sistema operativo originale con tanto di licenza, tutto. Io ho quello che ho sempre preferito, 7 Professional 64 bit, è sempre il migliore, robustissimo. Lo so, purtroppo il 10, adesso certe cose non riesci a farle andare col 10, se non hai il 10 di queste cose che ho installato, ci vuole per forza il 10, anche se qualcuno con 7 lo fa andare, ma questo vedrà Windows 10 Pro Professional 173, questo Fujitsu è bellino perché è piccolino, è tipo un decoder di cosa, pesa 1,7 kg, mi hanno detto che sono delicati, nel senso se li devi rompere, se si rompono se lo rompi perché poca gente riesce a sistemarli, però è come tutte le cose, se costa più la riparazione è come comprare uno nuovo, e questo nuovo costava una barca di soldi, è un Fujitsu, ed è bello, molto molto carino esteticamente, c'ha tutte le cose utili, tutti gli ingressi. L'unica cosa, infatti la Tajanfra, come dice, sono degli adattatori per attaccare l'HDMI. Sì, c'è tutto, si trova tutto, anche a Sassari, tutto si trova. No, la Fujitsu Zen è una ditta con i controfiocchi, in elettronica ha fatto meraviglia un po' su tutte le cose, è un'ottima scelta, diciamo, va molto bene. Io il mio sì, ce l'ho sempre, funziona benissimo, non mi dà nessun problema di niente, c'è un sistema dell'HP che ogni tanto si mette in automatico, ripulisce tutto, controlla se c'è qualche problema e mi dice ok, va sempre bene, non mi ha mai dato noie di nulla proprio. Scusate, un po' fa, non ho sentito, saluto a tutti i circolari, perché nel mentre mi sono entrati mia madre, che io sto già pranzo, mia figlia, sono andati tu, cosa mi stai dicendo, Roberto? Guarda, ti porti appresso, il segnale è 695, sai, però ti porti appresso questo fruscio di QRM, boh, che strano, probabilmente noi non siamo favorevoli uno con l'altro. Sì, ma lo sento anche sopra te un pochettino di fruscio, oppure sì, 915 abbondante. E la radio che è un po' rimbombante. Ma per quello possiamo rimediare subito. Così va meglio, meno rimbombante. Sì, va molto meglio. Io probabilmente l'ho preso di riflessione perché mi ha fatto vedere Saverio da dove modula e c'ha la parete e l'antenna attaccata in terrazzino. Secondo me io arrivo, cioè per quello è il problema tuo, sino ad ora non si muove questa antenna famosa, perché Saverio arrivava a bomba, era uno dei più forti che arrivava qua. Tu come mi ascolti Saverio? Sì, 915, però sotto ti sento un fruscio anche a te, invece l'ultimo. Sta innescando adesso Roberto. Ma chi è o lui? Roberto sta innescando. Cioè io sto innescando adesso? Adesso no, poco fa sì. È strano, mai notato una cosa del genere, forse non ho premuto bene il PTT, adesso sta andando bene Claudio? Sì, sì, perfetto. Vabbè, c'è da dire che c'è il computer acceso vicino, ma non ha audio, non credo che sia quello che disturbi, però probabilmente non ho premuto bene il PTT del 60. Comunque 9:20 staccato su, vabbè. Ma sono uscito? Sono uscito, siamo sovramodulati, vabbè. Come ti arrivo io? Allora, tu a portatore ci arrivi, 9:10 abbondanti, quasi 9:15. Ultimo segnale. Sono più pronto che io dal mio terrazzo, mi giro un obliquo verso la destra e c'ho vedo quella ciminiera, come si chiama? Inceneritore. Sì, cosa è una cos'altra che si vuole? Poi vedo le paglioni qua a Fiume Santo, vedo tutto l'acqua. E sarà la ciminiera di Fiume Santo, dalla centrale elettrica. Vedo quello, vedo tutto. La visione lì, a parte da lì, da Fiume Santo, poi fino per arrivare a... dopo la Marina di Sotto. Vedo tutto, vedo specchio lì. Da considerare che oggi è una giornata balorda e c'è un bel po' di vento qui che arriva a raffiche. Poco fa c'avevo la mantola che si stava piegando un po'. Infatti sono fermo, non sto facendo niente con le antenne perché non ho tempo. Sì, vabbè, comunque devo salire su a ispezionare il sottotetto, vedere un po'. So che la bisticciano con un ricco di giù, ma non me la trova niente. È un diritto. Qualcuno può mandarmi il decreto? Ce l'hai Roberto Ferrari questo decreto, così non la faccia. È il diritto di altri, naturalmente, stai attento a rimanere entro sempre i limiti degli apparati e cose del genere. La roba di Eva. La roba di acqua, sono all'interno, sento un accoso di coso, la sentita l'acqua? Qui no. Infatti, non c'è nessuno, mi sale un punto di frazionario. Certo, un bel, veramente qua dentro non sento niente, ma adesso sono all'interno, una stanza all'interno, poi c'è la veranda, ma cazzo, mi sta scendendo a quintali di acqua. Ok, vabbè, aspettiamo, io ti ascolto, ti ripeto, su per il 9, anche quasi 9:10, però probabilmente non siamo diretti, perché qualche riflessione o qualcosa che ti dà questo fluscio appresso ti porti, però riesco a tirarti fuori, dai, non c'è problema. Claudio il portatore per dire arriva a 9:15. Anche qua, guarda, ciao, il segnale appena più basso del tuo, prenditi pronto, ma lui non ti capello più lontano di te. Sì, è evidente, ci sono troppi ostacoli, fratello, capito? Così in queste condizioni con l'antenna del poggiolo. Poi soprattutto di questo palazzo è tutta un'altra cosa, allora di lì sono a 360 gradi, questo ne sono sicuro. E di lì ti farei sentire da tutte le parti, perché ho visto che sei tutto aperto quando mi hanno mandato con la foto, col video, adesso mi conosce la foto un video, era tutto aperto, vedi tutto il Golfo della Sinara, poi sei altissimo, cioè è una bellissima posizione. Dimmi un po' Claudio il portatore, com'è il mare? In burrasca oggi? Oggi è un po' mosso, sì, è un po' mosso e c'è il vento strano oggi, a raffiche, un po' smette e un po' arriva di colpo, a mastragne, come dicono qui a Polo Torres. È un tempo strano, sembra che voglia innescare qualche tromba d'aria, speriamo di no. Allora, domani, siccome io sto a pescare, sto aspettando che passi la navigata, domani all'Argentina Marinituri ha messo quasi 5 litri di roba. Caspita. Vabbè, lì è risaputo, lo saprai, l'Argentina è micidiale, lo stesso per dire Marinituri, per il Tintino, adesso la zona di Così Donna, quella zona lì, e magari ci sono, capito, 2 metri di onda. All'Argentina te ne segna 3,80 metri, perché ci devono essere a largo dei fossi della sabbia che sviluppano questa onda più alta. Non lo so, lo sappiamo gli studiosi. Ma dovete sapere una cosa, cioè, a riguardo delle onde. Come? A riguardo delle onde, nel mar Mediterraneo, che è un mare chiuso, non è oceano, una cosa del genere, hanno misurato a largo di Capocaccia, non so quante miglia, 30 miglia, non so, l'onda più grande mai misurata da una boa nel mondo, l'hanno misurata di lì, 25 metri di onda, l'hanno misurata tanti anni fa, nel mar Mediterraneo, misurata con la boa, non misurata a gusti a occhio, perché onde ne hanno fatto anche più grosse in altre parti, però proprio con la boa delle correnti è arrivata un'onda di 25 metri, tanti anni fa, e questo da Capocaccia è il mare più brutto in vita mia, l'ho visto a Capocaccia, Capocaccia, l'Argentiera. Sì, io l'Argentiera, non la Capocaccia, poi ti stavo ascoltando. Sì, così, cioè, a largo dell'Argentiera, chissà quanta distanza, quante miglia, ci deve essere, un fosso di sabbia, quindi quando l'acqua arriva di cosa fa? Prende e gonfia e si solleva, se quell'onda era di 5 metri, si raddoppia, deve essere proprio così, perché scusa un attimo uno, è tutto in linea, no? Mare di fuori, se tu vai scendi verso Tintino non è molto lontano, l'Argentina da Tintino, l'onda non è la stessa, è diversa, è molto più bassa, il punto più alto è sempre l'Argentina. Sì, perché il fondale si abbassa, è tocca. è micidiale. Io tanti anni fa l'avevo visto, sono andato proprio a vedere il mare, e poi ho visto quando c'era levantata a Castelsardo, è spaventoso. 2-3 anni fa ho fatto un video, non ho mai visto onde di levante così spaventose nell'Otto Sardegna, parliamo naturalmente poi se va da altre parti, superavano le onde all'altezza del porto, del molo del porto, era una cosa, ma è un vento che non ti riuscivi a tenere. Guarda, se cerchi su YouTube ci deve essere di qualche anno fa un video di una coppia o comunque due persone in macchina, si bloccano nel piazzale dell'Argentiera dove c'è la miniera proprio, lì nel piazzale, lo sai quanto è lunga la spiaggia, dal piazzale, dal muro, arrivare giù a Bagnasciuga, stiamo parlando di 25-30 metri di spiaggia, un'ora mai salata, una bomba, ci ha mangiato la spiaggia e l'acqua le onde arrivavano sopra il parabrezza della macchina che stava facendo il video. Prenditi conto. Sì, sì, lì è micidiale il mare. Ok, di nuovo Claudio di Porto Torres davanti a te. Caspita, è aumentato il QRM, ce l'ho quasi a 9, incredibile. Un rumore pazzesco, quasi a 9. Sì, comunque l'avevano previsto, non so se l'anno scorso o l'altro anno ancora, dicono che nel Mediterraneo si stanno formando le stesse condizioni come nel Golfo del Messico, né più e né meno. Si potrebbero, secondo questi scienziati delle meteorologi, che si potrebbero formare tifoni come là. A me già mi levi pure la corona qua. Non ti sento più, Saverio, sei coperto dalla caspita. Ma come mai questo problema così alto? Allora, guarda, come sta piovendo, no? Ce l'ho sempre. Non ti sento più? Non mi sento più, vabbè. No, dice c'è il problema a 9, non ti senti più lui. Sì, guarda. Mi sembra che io gli arrivo così, sotto a 9, quindi sotto a parte. Tu, quando ti metti l'antenna a Porto Torres, ce l'hai di fronte, gli arriverai a 9.30, secondo me, Salve. Sì, sotto a 9. Comunque, a quel punto, se devo salire sul tetto, l'arrivo io l'ho presa, per me te l'ha portato giù. Però se sta facendo un tempaccio, ho rilevato le misure giuste. Il tiro deve essere lungo, 4 metri e 78. Per questa bandacqua, a meno che non la voglia accordare il 28 MHz, allora deve essere 4 metri e 60 centimetri. Dopodiché devi giocare uno super. Ho seguito un video di un radioamatore, comunque che fa il video per conto della LM, perché tutti la criticano, tutto qua, tutto là, mi ha dimostrato che lui alla vallata fuori da Roma arriva lo stesso segnale identico per la motovolta, non arriva mezzo facciamo un attimo di bianco, vediamo se c'è qualcuno in diretta. Prima di tutto voglio chiamare Gianfranco, se c'è avanti. Gianfranco, se ci sei, se no riprendi tu Claudio. Sì, è arrivata una tempesta magnetica, non sento più nulla. Caspita, ha superato 9, ha superato. A me mi ascolti sempre, Claudio. Sta grandinando forte, Claudio. Provate a passare in FM, a vedere se è meglio. Attento Claudio, Porto Torres, mi ascolti. Come va, meglio? Io ti ascolto, Claudio, tu a me ti fuori. Nulla, Claudio a me non mi ascolta. Aspetta, ascolta a me, mi ascolti Claudio? Prova tu, Claudio, sbarriere, prova a chiamarlo. Aspetta, Porto Torres, Claudio, mi ascolti? Ho detto che sta grandinando forte qua, rimani in ascolto, sta grandinando. Ehi, ok, anche qua c'è stato un bel di Eva, un grande ghiera, un bel forte. Claudio di Porto Torres, mi ascolti? Sì, adesso forte e chiaro. Prima non riuscivi a prendermi in AM. Il QRM ha passato i 9. Comunque qua sei a fondo scala, sta arrivando. Claudio, mi ascolti a me? Sì, adesso sì. Capo. Va benissimo, qua la radio l'avete semiforica. Claudio, ma lì non sta grandinando? Ma non vedo fuori perché ho chiuso la serranda perché arrivano colpi di vento forti. C'è una maestralata allucinante quassù, grandine a tutto andare, ma grandine forte, ho dovuto chiudere gli sportelloni perché altrimenti mi entrava la grandine dentro casa. Dai, io rimango in ascolto ragazzi, se il tempo lo permette ci si sente più tardi, altrimenti ritenetevi salutati. Ciao. Ciao. Ehi, ciao Claudio, vai, salve. Passata prima qua, ha tirato una, proprio una passata forte. Adesso se non vuoi ridere ti faccio il video e c'è il sole. Capito? Mi stava staccando i fili da fremere, che sono lunghi quanto il terrazzo, 10 metri. Me ne stava tracciando tutto. E adesso sta facendo il sole. Vai, comprendi? Non lo so, Salvi, infatti stavo arrivando da quella parte, però c'è troppo tempo brutto, dai, meno male ne ho tolto l'antenna, se no me la portava via poco fa. Scappa, dai, ci sentiamo. Salve, vedi quando ti arrivo adesso. Salve, non c'è più. Vai di nuovo Claudio di Porto Torres. E da me sei 9.40 adesso. Tu sei a fondo scala, superi, vabbè. In FM questi indicatori non sono tarati. Comunque superi 9.60 qua, pieno. Che è, sei tu sì? Non stai uscendo? Come non sto uscendo? Ora. Sì, adesso sì. Quanto ti arriva a te, Salve? No, ho detto io, questa radiolina in FM, esce bene o esce male? No, ti ascolto bene, no, ti ho detto un controllo di segnale. Ma c'hai lo smitter o gli indicatori a LED? No, non c'è lo smitter. 9.15. Lo vedi che non siamo noi favorevoli uno con l'altro, con l'antenna probabilmente è completamente orientata dall'altra parte, perché dovrei arrivare a bomboletta da te. No, io c'ho già, è come che vedo l'ottica, vedo già, ci sono un sacco di ostacoli prima di arrivare a te, non so se l'hai copiato poco fa, te l'ho detto, non siamo favorevoli, ci sono molti ostacoli davanti, in questa condizione qua, dal terrazzo, dal tetto. A fondo scala come io ti arrivo a fondo scala. Ehi, aspetta, chi c'è davanti che vuole entrare? Chi è che vuole entrare? Boh, mandano portante e non parlano. E l'ho vista. Claudio, come mi ascolti l'FM? Ottimo, 6.8 adesso. Capo, quindi ti ha dato via questo QRM, là si è abbassato. Sì, molto meglio, in AM era impossibile. Capo. Tu sei anche la potenza, Claudio? No, sempre come ti ho detto ieri, io c'ho 20 di fissi e poi modulato sale parecchio l'LC, quasi supera la zona rossa. No, io adesso sto uscendo a piena potenza, dovrei abbassare in FM, questo va a piena potenza, devi abbassarti. Come stai usando? Il 44. E anch'io. E beh, quando commuti da MFM non va a piena potenza. Robe. Te lo sto dicendo, io a Porto Torres la vedo proprio città di Porto Torres. A te non ti vedo perché ci sono un sacco di palazzi prima di arrivare di lì sulla zona tua. Da qua, dal terrazzo. Parlando di sopra il tetto, tranquillo che le antenne si vedono. E ti arriverò sicuramente bene. E come tu a me. Sì, no, ho fatto una domanda a cosa, a Claudio Portatore. Ho detto, quando commuti da MFM, non vai a piena potenza l'apparato tuo, il 44, Claudio? Non lo so, sai, è una domanda che non mi ha mai messo. E te ne accorgi dalla lancetta quanto sale. Allora, l'LC adesso è fisso, non è come in AM, no? È fisso alla linea fuori, la linea rossa, poi se metto PVR, sono quasi 80 watt adesso modulati. Infatti quello che volevo dire, quello lì come commuti va a piena potenza, la devi abbassare pure. Vabbè, quindi praticamente siamo tutti con 100 watt adesso questo momento. Diciamo di sì, non si deve dire. Meno male che non faccio più TVI. No, io grazie a Dio mai avuto problemi di niente. Io sto facendo TV guai a quella del piano in su. Aspetta un attimino, scusate. Cicci l'ha abbassato. Aspetta, risposto il canale, riprendi qua. Riprendo io, sì. Stavo dicendo poco fa che l'ho detto, magari non avete. No. Non sono riuscito a dirlo bene. Uno scienziato meteorologia ha detto che qui nel Mar Mediterraneo si stavano formando le stesse condizioni come nel Golfo del Messico, figuriamoci. Ed è possibilissimo che si attivi qualche tifone o roba del genere. No, io già l'ho sentito quando l'hai detto, purtroppo speriamo che non sia veri la cosa, la profezia. No, ma non è una profezia, è un dato scientifico. Vabbè, diciamo, ho detto profezia, però volevo dire la stessa cosa. No, è perché sta cambiando tutto, basta lottare. Tutte le razze di pesci tropicali che abbiamo, che non abbiamo mai avuto, perché? è il surriscaldamento. L'acqua, cioè, non è più fredda come 50 anni fa, qua. E sta cambiando tutto, l'ecosistema, tutto. E adesso è molto probabile che si formino questi cosi in acqua, queste trombe, si mischiano le correnti e fanno, non dico proprio un tsunami, ma dobbiamo stare allerta, dai, è cambiato. Condizioni climatiche sono completamente diverse da 50 anni fa. Sì, ma guarda che l'anno scorso ho visto volare via delle verande lì a Capofalcone, Sintino. Verande grosse, proprio il vento le ha sollevate e spostate di quasi 100 metri più avanti. E ha divelto dei cancelli che sono pesantissimi, cancelli scorrevoli, divelti proprio, tolti dalla sede e buttati in strada. Sì. Comunque per domani prevista maestralata forte e continua fino a mercoledì c'è mare. Ma la nave sta viaggiando? Sì che c'è. Vuol dire però domani dovrebbe essere più forte, boh. Strano, non la bloccano. Quanto cavolo di mare deve mettere per bloccare la nave? Avantieri non è partita, l'hanno fatta partire in mattinata presto. Ma detto avanti ieri coso, è Eugenio che hanno chiuso il porto alle 8:30. Ce n'era troppo, Roberto. Sì, dimmi. Tramite qualcuno che avevo fatto in Sassari, magari tu nell'ambito del lavoro tuo magari ne conosci altri. Stavamo cercando un ponte a forbice. Me l'hanno detto, però ce l'ho io, però ce lo utilizziamo, non ne ho, se no te l'avrei. Chiedo un po' in giro se c'è qualcuno, ma hai guardato su Marketplace, che quelli ce ne sono tante di queste cose, ne trovi tante, ne avevo visto uno di recente pure. Sì, fuori ci sono, però costa più la spedizione che il ponte. No, in Sardegna parlo, ne avevo visto uno da poco. No, in Sardegna niente, non ne ho visto nulla. Ma scusa, allora, che tipo di attività fai tu? Non è per me, è per un altro amico che anche lui è CB. K, ma sempre campo riparativo, macchina o moto? Macchine. Non lo so, io ne avevo visto uno qua in Sardegna, perché ci sono, per certe attività, ogni tanto guarda, ho visto c'era qualcosa del genere, un rosso, mi ricordo anche il colore. Siccome che lui non ha tempo di star lì a cercare roba sul computer, glielo faccio io, capito? Mi do una mano io. No, in continente ne ho trovati anche tanti, però o non lo spediscono, o se no la spedizione costa un botto. Sì, assolutamente, ti chiederanno 300 euro di spedizione soltanto, perché è pesante, un ponte del genere peserà non meno di 200 kg. Di più? Forse sì, forse c'è ragione, no, cacchio, di più, molto, molto di più peserà quello che abbiamo noi, perché c'è tutta la centrale di comando e cose, forse sarà 500 kg, una cosa del genere. Ma il tuo cosa c'ha? Le ruote, si può spostare, sì? Sì, si può spostare, sì. E così gli serve a lui, perché due normali ce li ha, di quelli a piantone, quelli lì ne ha due, gliene serve uno così. Quelli io l'avevo preso da un amico che ha chiuso l'attività, ma nuovo fiammante, mi l'aveva comprato, è ancora nuovo, l'abbiamo utilizzato noi, ma è ancora nuovo, ce l'ho un paio di anni, ce l'abbiamo, OMCM, quello che costruisce anche i ponti elevatori, questo è pneumatico. No, in Sardegna proprio nulla, avevo chiesto a Danilo anche, che lavora lì da Marcetoli, ma non mi ha mai tornato la risposta. Ma più che Marcello, provo a chiedere, perché Gosvino anni fa aveva ritirato, non so se c'è ancora roba, da un istituto professionale di Oristano, ma c'era roba nuova, compressori, ponti, torni, cacchio, l'aveva preso a prezzo di coso, di ferro vecchio, aveva fatto la commissione, l'aveva pagato una cosa ridicola, ma si è rivenduto un sacco di roba, ma roba nuova stiamo parlando, mi Gosvino, queste cose, poi aveva ritirato dalla Serrale della Maddalena, lo stesso quello tra la mia d'Italia, un bel di roba, c'era un po' di roba. Sì, ma glielo dico. Adesso poi magari pomeriggio ci sentiamo al telefono sempre. Glielo dico. Li conosce tutti. Forse se magari proprio lì non è che ci vada molto lì. E vabbè, e gli occorre perché non ha un posto.